Ve lo ascoltate e improvvisate un po' di mosse. Il CD contiene alcuni miei esperimenti ritmici e armonici, cardiotonici. Dai. Il titolo del CD è Some Experiments. In occasione di questa pubblicazione, io, Luca Noyes e il terzo uomo abbiamo pensato di regalare alcuni CD. Che belli. Il regalo lo facciamo in tre, ma me lo pago da me. Non ho capito perché, ma così è. È giusto. Ai primi 10 ascoltatori che scrivono che scriveranno un SMS al 333 646 76 62 non diamo niente. Però M2O. All'undicesimo scrivente li righiamo un dente e gli omaggiamo una notte di fuoco con Luca Noyes. E poi dopo lo mandiamo anche in vacanza con questi qua che stanno iniziando a chiacchierare qua sotto, che si sentono, senti che loro si ripetono un paio di concetti all'infinito e a tempo se li ballano. Interessa se il mondo corre. Noi camminiamo molto lentamente. Noi procediamo pensando. Stiamo attenti, andiamo lenti. Stiamo attenti, andiamo lenti. Lento, violento. Lento, violento, stiamo attenti, andiamo lenti. Beh, questa è una nuova produzione di due mangiapiadine a tradimento. Hai cambiato il disco. Potevi mixarlo. Sì. Questo è forte. È bello questo qua. Sì. Ma tornando alla premiazione. Quella del CD. Muovete. Chiappa la penna e scrivi il numerino. Se vuoi il CD, manda il messaggino. Se non lo scrivi, le corna sono le tue. 333 646 76 62. Faccio spelling. 333 64 67 662. Ai primi 10 mandiamo il nostro nuovo CD. Ai primi 10 che scriveranno violento. Ai primi 10 che scriveranno lento. omaggiamo violento. Il CD. Restate lì. Omaggiamo il CD. Restate lì. Lo spedisco io da qui. Chi è questa canzone qua? Love Transistor, Wherever. So many miles I travel around the world, and I didn't know anything I would do. So many miles I think about you in time, and I didn't know anything I would do. Per immaginare, e tutto questo ti fa viaggiare, viaggiare, immaginare, viaggiare. Lento violento man. Eh sì. Pizza pizza. cantando, fratello? Pazzesco. Artista? Non pervenuto. Minutaggio? Non pervenuto. Vabbè. Scegli la canzonetta. Chi vota poco resterà piccino. www.gigidagostino.com Apre la paginetta e scegli la canzonetta. A fianco al titolo troverai un pallino e lì dentro metterai il votino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Titolo: Rugiada. Artista: Lento Violento Man. La trovo in vendita o me la devo scaricare? Venerdì 17 marzo 2006, ore 22:30 circa. Discoteca Ultimo Impero, via Autostrada 1, Magliano Alpi, in provincia di Cuneo. Magliano Alpi, in provincia di Cuneo. Musica e ritmi di Gigi D'Agostino, che sono io, Luca Nois, che è lui, e Daniele Mondello, che è l'altro. Ci vediamo lì, di venerdì. Ci vediamo lì. Di venerdì. Titolo: The Final Countdown. Bello, bello, bello questo qua. Bello. Artista: Il folclorista. Dal mondo normale siamo lontani. Sulle mano. Sulle mano. Preciso. Telling me the search is within. Got so much anger, but it won't come out.

Che famo notti. coso, fammi una mixata. È stato veramente un grande. Sì. Gigi D'Agostino, mica nocciolina. Questo è l'inferno. We'll be right back.

colleghiamo col Celestino di Scopar. Momento creativo. Passaggio all'aperitivo. Passaggio all'aperitivo. Momento creativo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Assaggio l'aperitivo. L'aperitivo di oggi è... Musica allo stato puro. È di nuovo su CD. 15 tracce mixate. Traccia CD-ROM. Con l'archivio delle sigle e le schede dei DJ di M2O. In più, il nuovo cortometraggio musicale M2O Sileven. Put your hands up. Mixer and selector number one by Provenzano DJ. The dance movement number one. La compilation di M2O è nei negozi di dischi e nelle edicole con il nuovo numero di Pianeta M2O a 9,90€. M2O Online. Commissione veloce. Un saluto particolare a tutto M2O, Dani Cotera Marina, Calabria. Allora, M2O è la quarta volta che vi dico di mandare un messaggio. Per favore mandato. Paolo sei un porco. Forza Gigi D'Agostino, vai, continua così. Ciao M2O, siete i migliori, siete i più forti. Vai M2O. 800-800-626 M2O. No. Matteo, andiamo al cinema stasera? No. A cena fuori? No. Ma insomma, cosa devo fare per convincerti? Ecco, incentivami. A marzo puoi avere Lancia Y con finanziamento a tasso zero ed eco incentivi fino a 1.500 euro. Lancia Y, tua da 9.950 euro con eco incentivi. Importo massimo finanziabile 10.000 euro, TAG 2,51%. Eco incentivati in tutte le concessionarie Lancia. M2O dal vivo. Out of mind. Chemical Land e Promise Land per sabato 18 marzo hanno selezionato Discoteca Max, Bressanone, Bolzano. M2O dal vivo. 0DB e Mazza e Martinelli per sabato 18 marzo hanno selezionato Discoteca River Piper, strada in Casentino, Arezzo. M2O dal vivo. Tribe, Chiara Rubioni e Simone Girasole per sabato 18 marzo hanno selezionato Discoteca Eurogarden, Cagliari. M2O dal vivo. Out of Mind, Provenzano DJ per sabato 18 marzo hanno selezionato Discoteca XXX Slam, Acerenza, Potenza. M2O dal vivo. È il programma col cuore di un bambino. È il cammino di Gigi D'Agostino. Poco resterà piccino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Tu sei una persona capace di farmi tremare anche senza la tua presenza. Anche senza la tua presenza. Lo fai penetrando i miei pensieri. Pensieri. E percorrendo con me i più oscuri sentieri. You let me down so many times that I forgot the very first. It's time to stop this useless relation. That's no good for both of us. I guess if you keep loving me, or do you love to see me cry? I can't afford this bad situation. Your behavior has to stop.